Carissimi amici e amiche, eccoci tornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata a Tenera Amata, che ci allieta la vita terrena e ci accende i desideri dei beni celesti, come abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo terminato la precedente conversazione, vedendo addirittura come Tenera Amata glorificasse, quindi facesse godere in maniera soprannaturale come sacerdotessa della creazione, come lo siamo tutti noi, una mosca. Ecco, tanto per avere un piccolo assaggio di ben altre delizie soprannaturali. E abbiamo proprio concluso con la frase di Tenera Amata, da cui vorrei riprendere, che dice queste testuali parole: questa mosca aspetterà eternamente nella quinta dimensione nuove e migliori glorificazioni che le verranno dal resto del cosmo, d'accordo coi disegni dell'Altissimo, e lei corrisponderà a sua volta spiegando effusivamente i doni naturali che le diede il nostro Dio. Quindi comprendiamo che questo mistero dell'eternità creata, e quindi dell'eternità degli esseri, coinvolge tutti gli enti creati, tutte le sostanze create, tutti gli atomi creati a tutti i livelli. Ecco, probabilmente chi vedrà il video ogni tanto alle mie spalle vede qualche quadrupede che cammina per casa, se ce ne sono un paio che abitano qui dentro. Questi quadrupedi che stanno vivendo qui in questo momento storico, arriverà l'ora in cui certamente lasceranno nel tempo questa terra, ma questo arco di tempo che stanno vivendo è il loro tempo eterno. E sperando che tutto vada bene, perché fate sempre una preghiera, perché salvare l'anima è sempre il primo e principale obiettivo. Se, come spero, riuscirò a salvare la mia anima, tornerò in questo contesto e li conoscerò un po' meglio, loro conosceranno un po' meglio me, io conoscerò un po' meglio loro, loro mi faranno conoscere meglio le caratteristiche naturali che Dio gli ha dato creandoli, e io le farò godere molto più di quanto lo faccio adesso, quando si mettono vicino e cominciano a cercare carezze e fanno le fusa. È così, non solo. Quella povera gattina cieca che ecco, la provvidenza ci ha mandato per allietargli un pochino la vita, poverina, che ecco, dentro un ambiente sicuro campa meglio. Io sono praticamente certo che nell'eternità creata, dato che saremo dei piccoli dei, lo vedremo, cioè si possono manipolare gli atomi. Quegli occhiolini, se non glieli rifà nostro Signore durante l'eternità creata, cosa molto probabile, glieli rifaccio io. È possibile farlo, cioè già Tenera Amata ci ha dato una piccola dimostrazione, ecco, perché anche la struttura del globo oculare della vista, andandola a scomporre fino alla, come dire, ai minimi termini, sono atomi disposti in un certo modo, quindi i beati hanno queste cognizioni, a differenza di noi. Non solo queste cognizioni, ma anche la possibilità di operare su di essi, perché è una partecipazione di un potere che Dio dà loro come corredo della loro glorificazione. Allora, riprendiamo quindi da dopo, da questa affermazione di Tenera Amata in cui ci siamo fermati, la lettura del testo. Che peccato, dice Riccardo, che alcuni mortali, lo dico per me, ci comportiamo come specchi sporchi che riflettono appena e confusamente l'amore divino. E lei gli ribatte: ah, per fortuna non tutti i pellegrini sono così. Esistono in questo tempo molti santi viatori. Ma come dici, è un vero peccato che in alcuni esseri umani si dia la tremenda aberrazione di odiare coloro che li amano o potrebbero amarli. Ed è anche un peccato che tu non possa gustare in questa vita i piaceri della gloria accidentale. E adesso cominciamo a sentire, ecco, questo è un passaggio su cui richiamo l'attenzione. Tutto al contrario, ti è pericoloso l'amoroso amplesso che ti dà la terra con la sua forza di gravità. Perché è pericoloso? La forza di gravità è un bell'amplesso, ma se io vado al primo piano e faccio un passo in più e casco di sotto, la forza di gravità non è tanto un amplesso, mi fa sfracellare per terra. È un amplesso se cammino, non se volo per aria. Ecco. Ti irrita l'affettuoso scoccare dell'elettricità. L'elettricità, vedremo che dirà tenera amata, che è una cosa bellissima che Dio ha creato, qui noi non la percepiamo come tale, perché se metti le dita dentro 220, insomma, vedi che stocca che te prendi, insomma, no? E se vai sull'alta tensione, te ne vai dritto dritto al creatore. Quindi noi non percepiamo il diletto che provoca il contatto con l'elettricità, a meno che non abbiamo dei voltaggi molto bassi, no? Tipo gli elettrostimolatori che vengono utilizzati anche a fine, penso che lo sappiate, a fine di benessere, a fine terapeutico, non soltanto, a fine, no, non terapeutico, a fine appunto di benessere o a fini estetici, quindi non soltanto a fini terapeutici per riprendere l'uso di arti e articolazioni, no? Però hanno un voltaggio evidentemente molto molto basso e se si carica troppo il voltaggio diventa fastidioso anche un aggeggio del genere, no? Ti causano dolore le carezze che ti fanno le cose veemente, nel loro veemente linguaggio di colpi o di tagli. Cioè, se noi prendiamo una lama e ce la mettiamo addosso, non è tanto gradevole il contatto con la lama. Ma tenera amata sta dicendo che qui non è contatto, non è gradevole il contatto con la lama. Vedremo, racconterà alcune storie veramente impressionanti, no? Senti, hai paura degli animali feroci. Cioè, se ci troviamo davanti un leopardo, un puma, una pantera o un leone o una tigre, non credo che passeremo un bel quarto d'ora, insomma, anche perché qui i nostri padri nella fede, che sono morti. Ecco, sotto i loro denti ne sanno qualcosa. Qui però. Poi non sarà così. Ho ripugnanza degli insetti. Pensiamo a tutte quante le fobie che si hanno da parte di molti per gli insetti, no? Poi per gli insetti o per gli animali, come dire, che possono essere un pochino repellenti, no? Tipo c'è chi ha la fobia dei topi, no? O i serpenti. E sentite cosa dice Ramata. Attualmente non sei ancora programmato per condividere l'amore universale e molteplice. Capiamo l'Italia. Universale significa rivolto verso tutto. Cioè che abbraccia tutti e tutto. E che è capace di percepire e dare amore a tutto e a tutti. Ed è un amore molteplice. È chiaro che l'amore che io mi scambio con l'elettricità è diverso dall'amore che mi scambio con un animale, proiettandomi nell'eternità creata, diverso dall'amore che mi scambio con un altro essere umano, con una delle tante fiamme d'amore che il Signore per tutti noi ha pensato, e che qui non possiamo vivere in questo mondo, è diverso dallo scambio d'amore che ci avremo tutti con la Madonna, con il nostro Signore Gesù Cristo, con la Santissima Trinità. E ne ho detti soltanto pochi, eh. Ma nella patria constaterai, riprendo la citazione, che amare è dare, che l'amore si paga con l'amore. Che il contraccambio è molto gradevole e che per essere felici occorre far felici le altre creature vincolate amorosamente con te. E qui possiamo cominciare già da questo mondo. Queste cose, queste ultime cose, qualcosa lo capiamo anche in questo mondo, no? Che l'amore, amore con amor si paga, era una frase cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, è evidente. Cioè, ogni volta che il nostro amore rimane in qualche modo frustrato verso chiunque, noi stiamo male. Mi pare di aver già detto, non so se in questa sede, che è importantissimo quando qualcuno ci fa una gentilezza, quindi un atto di amore o di attenzione, anche minimo. Far notare che lo si apprezza, no? Sapete alcune norme del Galateo, che sono cose belle, a me piace dirle, no? Perché sicuramente già tutti quanti le sapete, però noi su queste finezze dobbiamo allenarci un po', no? Supponi che per esempio una persona ti regala un maglione e tu sai che un giorno devi vederla, mettiti quel maglione. Perché quella persona sarà contenta di vedere che quel maglione c'è addosso. E devi farlo proprio con questa intenzione, che quella ti veda, d'accordo? E che sia quindi contenta perché dice, oh, gli è piaciuto il maglione. Perché se questa te regala un maglione, tutte le volte che ti vede, non te lo vede mai addosso, sta tranquillo che ci pensa. A questo maglione non gli è piaciuto. Tra moglie e marito. Tra moglie e marito bisogna gratificarsi tutti i santi momenti. Quando uno si mette a tavola, deve dire che buono, che bello, capito? Perché una povera disgraziata che ti ha fatto il pranzo, ma pure se non gli fosse venuto benissimo, con tanto amore, e tu lo devi fare questa cosa qua. Se vuoi cominciare a vivere un pochettino per quanto possibile, perché qui purtroppo la quinta dimensione non ce l'abbiamo, però. Abbiamo la divina volontà che ci fa un pochino anticipare il paradiso sulla terra, no? Quindi questa finezza di amore dobbiamo in qualche modo provare ad acquisirla, no? Le norme del Galateo, per esempio, no? Viene un ospite a cena, ti porta una bottiglia di vino, tu puoi averci in cantina pure il Brunello da Montalcino del 1970, una bottiglia che ti costa 500 euro. Ma che c'è euro parato quella bottiglia che muovo fa? Lo lasci in cantina perché si apre la bottiglia del vino che ti hanno regalato. Proprio per manifestare questo gradimento. Cioè, noi in questa schifosissima società dove gli abitanti di Cafonia e di Grezzonia fanno proprio il fumo. Si stanno perdendo queste cose e non è una cosa bella. Infatti. C'è l'orrore e il vuoto, insomma, no? La bruttezza dilagante. Il contraccambio è molto gradevole, amor che annulla amata, ma perdona, non pensiamo agli amori soltanto nelle grandi cose, anche nelle piccole cose, no? E per essere felici occorre far felici le altre creature, vincolate amorosamente con te. Che ci abbiamo noi intorno a noi adesso? Ecco, allora, dobbiamo cominciare ad avere come obiettivo, fermo restando, attenzione, qui ci stanno buttando una serie di cose, quindi non dobbiamo attaccarci troppo alle creature, dobbiamo fare attenzione che non si attacchino troppo a noi, ma per quanto possibile seminare felicità intorno a noi, farle felici. Come possiamo? Adesso qui non è che ci abbiamo avuto tante queste grandi risorse. Allietare la vita di chi ci sta intorno. Questo è il cielo, d'accordo? Nostro Signore lo fa con tutti, per quanto possibile. Per quanto possibile, non la sua onnipotenza. La sua onnipotenza è un gioco da ragazzi. Ma purtroppo, qui in questo mondo, deve calibrare e dosare anche qualche croce per il nostro bene. Se potesse risparmiarcela tutti lo farebbe, ma quello non sarebbe il nostro bene e quindi non lo fa. I meravigliosi vincoli dell'amore universale sono gioiosissimi e non possono venire frustrati nella gloria eterna. E te ne accorgerai che l'assimilazione, l'eliminazione, le catene alimentari, anziché essere crudeltà della natura, sono sostituzioni molto gradevoli, ispirate dall'eterno amore universale. Capiremo più avanti che cosa intende con queste cose. Tenera amata, di che cosa è fatta l'anima immateriale ma non spirituale degli animali e dei vegetali? Attenzione a questi concetti, eh? Intanto vedo anche nei commenti lì che arrivano su YouTube, dice, ma che gli animali hanno l'anima? No, non hanno l'anima come la nostra. La loro anima non è capace di Dio, per cui non esiste il paradiso degli animali. Gli animali non vanno in paradiso. Gli animali sussistono nell'eternità creata e godranno più di adesso, ma sempre da animali, loro non vedranno Dio, non avranno la visione beatifica. Quindi, però, avranno una capacità di comunicare, di interscambiare amore con le altre creature molto superiore a quella che hanno anche loro. Nel tempo in cui sono viatori, ma non hanno l'anima. I diletti più grandi glieli daremo noi come sacerdoti della creazione. Ricordiamo questo, cioè incaricati da Dio di dare queste forme di gioia del tutto peculiari a questi esserini molto inferiori a noi. Tenera amata risponde. Aspettavo questa domanda, a cui non ti volevo dare spiegazione per non crearti altre complicazioni. Quindi si preparano altre complicazioni, poi cercheremo per quanto possibile di dirimerle, per quanto possibile, perché io ci provo, ma anche la mia conoscenza è limitata, e la mia capacità anche di dirimere le tante cose delicate e a volte un po' difficili che compaiono in questo bellissimo libro, no? L'anima immateriale, attenzione, principio vitale ed unificatore degli organismi irrazionali, guardate che ognuna di queste parole pesa una tonnellata, è una forma di sopraenergia. Molto superiore nella sua natura alla materia ed energia che tu conosci, ma sommamente inferiore all'anima umana. E infatti, Riccardo risponde: adesso sì che mi schiaccia l'universo per quanto è complicato, dissi tra me. Oltre a ciò che conosco superficialmente, esiste anche la sopraenergia. E quindi la infraenergia, delle quali non so assolutamente nulla. Nella creazione, mi spiegò con pazienza, esistono moltissime meraviglie che superano l'intelligenza degli uomini più saggi e degli angeli più intelligenti. Oh, io spero che stiamo capendo una cosa, che noi non sappiamo quasi un tubo, mi si perdoni il termine un po' feriale. Ma niente, è un po' poco, no? Un tubo di niente, quasi un tubo. Cioè, quando ci mettiamo davanti a queste cose, dobbiamo dire, ma questo sta già scritto nei libri sapienziali, che quanto sei grande, Signore, e noi quasi nulla contempliamo delle sue opere, quasi nulla. E attenzione, dice, attenzione che questa supera l'intelligenza degli uomini più saggi e degli angeli più intelligenti. E, riprendo a leggere, se la natura è inspiegabile per le creature più eccelse, pensa quanto più ineffabile sarà il creatore. Non pretendere di racchiudere nella tua mente il magnifico universo. La piccola scienza umana non è che una semplice sciocchezza, meno del balbettare dei bambini dinanzi all'Altissimo. Quindi pensate quanto sono. Pensate alla prosopopea di questi pagliacci, perché sono questo. mi si perdoni, insomma, che blaterano, che cianciano e che girano e che si riempiono la bocca con la scienza, la scienza, la scienza, e che adesso vogliono costruire il mondo senza Dio con la scienza, con la scienza, con le super tecnologie, che tutti quanti questi giochetti che abbiamo dinanzi a noi, quindi lo sto usando pure io adesso, computer dirette, wifi, impicci e imbrogli. A nostro Signore Gesù Cristo, cioè, sono cose che fanno ridere le galline per lui. Ridere le galline. Che è quello che ci sembra che siamo i padroni del mondo adesso qui, i satelliti, le intelligenze artificiali, è questo, e gli aerei. Sciocchi e stupidi esseri umani, stupidi, che si sono messi in testa di costruire la civiltà senza Dio, che per quattro cose che si sono imparati, pensano adesso defenestriamo nostro Signore. Ci stanno provando, vedrete che fine fa, che fine farà la Babilonia senza Dio, profetizzata la fine della Babilonia senza Dio nel libro dell'Apocalisse, fa una brutta fine. Tutte queste cose utili, se vogliamo anche belle, che creano delle bellezze, se tutti quanti gli uomini fossero santi, contribuirebbero veramente ad una elevazione della qualità del mondo. Ma quanti usano queste cose in maniera santa? Pochissimi, no? Io, se posso raccontare una cosa, cominciai su internet tantissimi anni fa, fui un pioniere, aiutato però dal consiglio di qualche saggio sacerdote che conosceva meglio di me San Massimiliano Maria Kolbe, perché io avevo tante titubanze, dico, ma me posso mettere in giro sul web con tutta la monnezza che c'è sta in giro? Ma lì è pieno di pornografia, è pieno di questa roba qua, ma come caspita faccio io andare a mettere le cose sante in mezzo a sto letamaio? Mi venivano questi pensieri, mi venivano. E quello giustamente mi disse, dice, no, cioè, che allora, tu lo devi fare apposta perché, cioè, questa è una risorsa, perché tu capisci che mettere una cosa di questo genere in giro, vi faccio un esempio, l'altro giorno mi è arrivata una telefonata, mi ha detto, a sa padre io ho visto un suo video su TikTok, dico, tu l'hai visto il video su TikTok? Dico, guardi che io su TikTok non ho mai caricato manco un video. Cioè, TikTok non lo uso proprio, TikTok non si può usare, almeno per quanto mi riguarda. Però un mio video stava su TikTok, io non ho la più pallida idea. Se sta su TikTok vuol dire che qualcuno l'ha scaricato e l'ha ricaricato di là. Cioè, capite, io adesso sono un pochino pratico, no? È chiaro che io dei miei canali ho i dati, i riscontri oggettivi, io so quante visualizzazioni c'ha un video, o quanti ascolti c'è un podcast o cose di questo genere, ma questo è niente però, perché ogni tanto mi ritrovo in giro, ci sono siti web dove hanno caricato una montagna di cose che ho messo io in giro, io non ne so assolutamente nulla, a me non mi importa niente per carità, quindi se facessero tutto quello che vogliono, cioè se lo ritengono utile, è chiaro che se una cosa la metto lì, so bene che una volta che l'hai messa lì, quello è un proiettile che ormai è fuori controllo, d'accordo? È impossibile eliminarlo completamente. Tu puoi eliminarli dai tuoi canali, ma appena c'è una condivisione, un download e un re-upload, quella cosa vola. Allora, questa è una risorsa però, cioè, perché mi fu spiegato, cioè, ti rendi conto quanta gente che magari non è possibilità, ti rendi conto seduta davanti a un tavolino ascoltando queste cose, magari sono pure convertì, eppure è brutto. Io dico, e vabbè, allora famolo, va. Non capivo ancora che, cioè, tutto quello che ci circonda, come del resto dicono i santi, in se stesso è neutro, diceva San Tommaso. Cioè, è in base all'uso che ne fai che può diventare ottimo, buono, indifferente o addirittura cattivo o pessimo. Il computer in sé non è niente, è uno strumento. Bisogna vedere quello che ci fai. Dicono che l'iPad sia il dispositivo diciamo, il tablet più venduto al mondo, non è un titolo di onore, perché è il più usato per guardare materiale pornografico per la chiarezza e la limpidezza delle sue immagini. Sikkest. Io evidentemente, c'è bisogno che lo dica, non ne ho mai fatto un uso di questo genere con i miei iPad. Cioè, io ho l'iPad sotto gli occhi, non lo vedete dallo schermo perché ho, figuriamoci, ho le buche di tenera amata dove posso sottolineare con l'Apple Pencil e quindi fare meglio il commento. Questo è l'uso che ne faccio io. Però capite, no? Lo stesso strumento, ahimè. E quindi questi che si chiamano la scienza con l'H, che si pensano di essere i padri eterni in terra, sono nessuno, sono. E non sanno niente in confronto a quello che è lo scibile che ci sarebbe da sapere. Niente. La piccola scienza umana, riprendo, non è che una semplice sciocchezza, meno del balbettare dei bambini davanti all'Altissimo. Questo bisognerebbero ricordargli ogni tanto a questi signori. Ma tanto questi non ascolterebbero perché non ci crederebbero a queste parole. È che desidero sapere la verità, con la V maiuscola, ribatte Riccardo, e la assaporerai in cielo, fino al limite della tua capacità intellettiva. Cioè, dinanzi ai grandi misteri, si perdoni se riintervengo un'altra volta, perché c'è molta gente che è curiosa. Allora, dinanzi a questi grandi misteri, l'atteggiamento è questo qui, cioè quello che il nostro Signore per grazia ci concede di conoscere, perché reputa utile, noi lo prendiamo con gratitudine e cerchiamo per quanto possibile di capirlo e di farne buon uso. Il processo contrario, cioè andarsi a prendere una cosa, non è mai una cosa fatta bene, mai. Voi pensate, no? La divinazione che è l'invocazione di un morto è un peccato mortale, gravissimo. Cioè, io vado a cercare un contatto con un morto, ma qui Riccardo sta in contatto con una morta, capito? Ma non è andata a cercarselo, ha ricevuto un dono gratuito. Andare a fare le invocazioni di angeli e cose di questo genere è sempre una cosa, diffidate, se è pericolosissima, perché non si chiamano gli angeli, si chiamano i diavoli. Però delle volte gli angeli si manifestano. Guardate Santa Gemma Galgani o Natuzza Evolo, tanto per dirne qualcuno. Capite? Cioè noi dobbiamo stare in un atteggiamento, tu non ti devi andare a prendere le cose che non sono le tue. Per questo fai peccato immortale. Se il nostro Signore liberamente ti fa un regalo, te lo prendi. Se te lo toglie, glielo lasci. Quindi tutte queste cose che non possiamo, le assaporeremo in cielo. E lasciamoci qualcosa da fare pure per l'altro mondo, no? Fino al limite della tua capacità intellettiva. E non mi riferisco alla capacità che hai attualmente, ma a quella che possederai nella tua futura condizione di beato, di re della creazione. Ma per adesso, qui facciamoci un bel quadretto con questa esortazione, eh? Mentre sei viatore, anziché indagare con egoismo gli ineffabili misteri del cosmo, che te indaghi? Ringrazia il Creatore per tutto ciò che ha tratto dal nulla per la sua grande gloria, perché ad essa parteciperà nel cielo. Invece di indagare, fai i giri, per chi conosce la divina volontà. Guarda le cose belle, cerca di metterti in sintonia, di prenderti ti amo che Dio, non ti metti a chiedere perché, per dove, per quando e per dove. Lascia perdere. Sono tante le questioni su cui gli esseri umani perdono tempo e si fanno domande non solo inutili, ma non gradite a Dio, perché la curiosità a Dio non è gradita. Dobbiamo starne lontano. Dio non gli piace la curiosità. Credo che in quel momento intravidi quello che diciamo nel Gloria della Messa. Ti rendiamo grazie per la tua grande gloria, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Sapete che il Gloria è la preghiera preferita dalla Madonna e dovremmo veramente cantarlo o recitarlo con tutto il cuore, proprio de core, come dicono a Roma. Sì, perché della sua grande gloria saremo partecipi un giorno, dice Riccardo. È così. Confermò Teneramata, ma hai bisogno di collaborare con l'Altissimo per raggiungere questa partecipazione, amandolo sopra tutte le creature e dimostrandogli il tuo amore mediante l'amore ai tuoi simili, perché così lui te lo ordinò. Attenzione alla sequenza, eh? L'amore è sempre prima e anzitutto amore di Dio. L'amore del prossimo è una dimostrazione di amore. Perché io amo il prossimo? Perché non faccio nessun male al prossimo? Perché perdono le offese ricevute? Anche da parte di qualche essere che è una carogna e che è indegno. Perché? Perché nostro Signore, come ha creato la mia anima, ha creato la sua anima. Ama di amore eterno la mia anima, ama di amore eterno la sua anima. Quando noi amiamo qualcuno, se c'è qualcosa che è preziosa per qualcuno che amiamo, è preziosa anche per noi. Questo è l'amore vero, eh? Gli amici dell'amato sono miei amici, i nemici dell'amato sono miei nemici. Giusto? E quindi, siccome Dio gli uomini li ama tutti, anche i peccatori, come dice Gesù nel Vangelo, fa sorgere il suo sole sopra i giusti e sopra i malvagi. Egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi e noi siamo come lui. Prova ad avere questa motivazione, dice, ma io non riesco a perdonare, non riesco a fare, perché non c'è delle buone motivazioni. Allora, amici miei, io penso di aver avuto più di qualche cosa da perdonare durante la mia vita terrena. Cioè, è difficile, lo capisco che è difficilissimo, perché cioè, le ferite sono sempre ferite enormi che ci portiamo dietro. Però bisogna vedere la motivazione. La motivazione non risiede nel soggetto. Il soggetto può essere spregevole quanto uno vuole, ma nell'amato che non vuole che tu ti vendichi, ricambi il male con il male, desideri il male, vuoi il male, no. Che perdoni, e come disse Santa Maria Goretti, voglio che stia accanto a me in paradiso. Vediamo se siamo capaci di dire di una persona che meno la vedi e meglio sta. Nella nostra preghiera voglio che stia a fianco a me in paradiso. Lui dice no. Ecco, perché uno che dicesse no, perché ancora ha capito un tubo, stasera è la serata di quello che è il paradiso. Perché in paradiso tutto quello di marcio, di negativo che questa persona può aver anche vissuto e avuto qui non c'è più. In paradiso, se quella persona, supposto che sia cattiva, si converte e ci va, la sua cattiveria non esiste più, non c'è più, è un'altra cosa. E quindi può stare tranquillamente vicino in paradiso. Il ricordo del male non c'è più, del male vissuto, le ferite non ci stanno più. Capite che significa cominciare a ragionare in maniera soprannaturale, non umana? Ma ricorda, riprendo la lettura, che sia amore di carità quello verso il prossimo, non di semplice filantropismo, come, perdonatemi, sembra essersi ridotta, non dico voglio sperare, non gran parte, ma almeno una parte della Chiesa. Che il tuo amore al prossimo abbia per fondamento l'amore di Dio, cioè qui si sciacqua in continuazione la bocca con l'amore del prossimo, si dimentica poco. Tutti penso che conoscete la grande frase che disse Santa Teresa di Calcutta, no? Io perché secondo voi sono andato in mezzo ai poveri, agli ultimi degli ultimi? Per fare un'opera sociale? Per aiutare questi poveri disgraziati che non si rifila nessuno? Per questo, tutto qui? Io non sono andato lì per questo. Io sono andato lì perché nostro Signore Gesù Cristo ha detto: Qualunque cosa tu fai al più piccolo l'hai fatta a me. E allora, siccome è più piccolo, io sono voluto andarmi a trovare gli ultimi degli ultimi, proprio gli scarti, i rifiuti della società. E quando io faccio qualcosa a quello, io non ho nessun dubbio che lo sto facendo a lui. E per questo lo faccio. L'azione esterna può essere tranquillamente la stessa, perché un filantropo può fare tantissimo del bene, ma quel bene davanti a Dio non ha nessun valore soprannaturale, nessuno. Ha un valore naturale e, come dice San Tommaso, il Signore lo ricompenserà con beni temporali in questa vita, ma non con beni soprannaturali. Perché viene ricompensato con beni soprannaturali e con gradi di gloria superiore e grazia in più, solo quel bene che ha fatto mosso dalla carità soprannaturale. Lo faccio per amore di Dio. Ma pensate, se uno vivesse, cioè, si potrebbe sfasciare una famiglia se questi concetti fossero convinzioni pratico-operative, ma quanto mai? Non, cioè, perché non esisterebbero neanche gli antecedenti logici per sfasciare una famiglia, perché per sfasciare una famiglia devi creare una situazione brutta, no? Di conflittualità esasperata, no? Ma vi pare che una coppia di santi osa insultare la sposa o lo sposo? Trattarlo male, alzargli la voce, offenderlo, la carne della tua carne? O e nessuno pensi che non è possibile? Eh? Se no, nell'eternità creata vi riporto a Borgo San Michele, dove portai una coppia di sposi, 70, 60 anni di matrimonio insieme con i figli che davanti a tutti hanno detto: io non ho mai sentito mio padre mancare di rispetto a mia madre. Quindi non è vero che è impossibile. Quella era semplicemente gente formata con una religiosità d'acciaio di altri tempi, che oggi non ci abbiamo più. Ecco perché è un inferno la vita. Il tuo amore del prossimo abbia per fondamento l'amore al tuo Dio e non sia invece un umanesimo di club, egoista e dolciastro travestito di cristiano. Sembra che stia facendo una fotografia all'ambiente, speriamo sempre di parte della chiesa in cui stiamo vivendo. Proprio la foto, proprio, no? Il vero cristianesimo viene edificato sul primo comandamento della legge del nostro Dio, sul primo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, non sul secondo. Il secondo comandamento è condiviso dai massoni. La fratellanza universale è un concetto massonico, eh? Viene dalla Rivoluzione francese, viene anche prima. Noi concepiamo il prossimo come soggetto da amare? Certo, ma bisogna vedere perché e per chi e come. Non è la stessa cosa, eh? Anche se a livello pratico gli atteggiamenti possono essere simili, ma non è affatto la stessa cosa. La morale laica, illuminista massonica, Kant diceva: il prossimo è degno di essere amato per se stesso. Agisci in modo da considerare sempre il prossimo come fine e mai come mezzo. Perché? Per l'intrinseca dignità che ha l'essere umano in quanto uomo con la U maiuscola. Per noi non è così. Assolutamente. Io amo il prossimo, anche chi è cattivo, non per la dignità intrinseca dell'uomo, ma per quello è una creatura dell'Altissimo. Quello c'ha l'anima, per quello Gesù ha versato tutto quanto il suo sangue fino all'ultima goccia. E quindi anche se attraverso la sua volontà umana storpia quell'immagine che ha, la degrada e si macchia di cose orribili, io vado oltre e vedo quello che c'è sotto, come lo vede lui. Fino a quando Dio non voglia, la malvagità e perversità in cui dovesse persistere non diventino irreversibili e quindi divento un dannato. A quel punto abbiamo finito di amarlo, a quel punto solo però. Quindi il vero cristianesimo viene edificato sul primo comandamento e niente ha a che fare con quell'altro atteggiamento comoduccio, sentite i termini, cristianoide e compiacente di religione di club che sopprime o ritaglia i dogmi per non molestare i credenti. Tra virgolette, ritaglia i dogmi per non molestare i credenti, ma sembra la fotografia di quello che stiamo vivendo. Sopprime o ritaglia i dogmi. Ah, oggi si può più parlare di questo. Dogmi, verità di fede, peccati. Anziché di peccati si parla di fragilità. Di dogmi non si parla proprio più, d'accordo? Anziché di verità si parla di dialoghi, quindi di cose che sono in costruzione. Non esistono dei caposaldi fissi. Come ti permetti tu? No, questi li devi comunque rielaborare all'interno di una posizione. Ehi! Cerca di accettare per fede, prosegue, più che di comprendere, ciò che in te si sta operando grazie a questo particolare regalo che ti fa il nostro Dio. Sentite che dice. Accetta con fede più che comprendere quello che stai vivendo con me. Fa per ricavare da tutto questo un profitto morale che ti serva per diventare migliore. Questa è l'unica cosa che conta. E per raggiungere nella tua condizione di pellegrino un più alto livello di carità, cioè tutte le cose che noi viviamo, che facciamo, c'hanno soltanto uno scopo. Anche ascoltare sta catechesi, per chi la sta ascoltando. Se tu non esci da qui e sei diventato un pochino migliore, tempo perso. Perché l'unica cosa importante è che diventiamo sempre più santi per arrivare a dei livelli di carità sempre più alti, perché da quello dipende il nostro grado di gloria. La vita terrena non conta niente di per se stessa. Noi dobbiamo essere completamente puntati verso la vita eterna. Nell'esercitare l'amore di carità aumenterà la tua collaborazione terrena al disegno del Signore su di te e raggiungerai un grado più grande di gloria nel cielo. E se aumenta la tua felicità accidentale, renderai più felice l'universo. Perché? Perché se io divento più santo, quando andrò in paradiso, io porterò un grado di gloria accidentale più grande agli altri santi che già ci stanno. Si capisce questo qui, no? Perché se entro io con un altro grado di gloria, come che supero tenera amata, quando io arriverò su, anche da me riceverà, tenera amata, chi per lei, che ne so, le leccornie più buone di quelle che sa fare lei, perché lei è ancora bassa nella gloria, gliela faccio io. Se io, un io impersonale, io e te, la superiamo in gloria però. E per superarla in gloria cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare ogni giorno migliori. E quindi prendere da tutto quello che il Signore ci fa vivere, che cosa? Non sta a farsi 100 miliardi di domande. Sta dicendo anche a Riccardo, dice, mo non te sta a cervellare tutto quello che te sto a dire. Cerca di trarne il massimo del profitto. Perché questa esperienza ti possa far diventare più santo, tanto più santo. Lui risponde. Intravedo ciò che mi dici, ma non lo comprendo del tutto. Lo so, risponde, e anche il Signore lo sa. Per questo, affinché con calma lo mediti e lo metta in pratica, lui ti ha concesso di vivere tanti anni. Sei autore, insieme col nostro Dio, del tuo merito e della tua gloria. Questo non dimentichiamocelo mai. Ma dammi retta, dinanzi ai dubbi religiosi e intellettuali, credi. E davanti alla perplessità di come agire, di come devi agire, ama, ma con amore di carità. Questo paratempo, il nostro Dio ti concede, se vuoi, che la tua unica anima, sentite, senza lasciare di animare il tuo corpo di adulto, sia cosciente dell'organismo che possedevi nella tua infanzia. Lo vuoi fare davvero? Capite cosa sta dicendo? Cioè, gli sta dicendo che questa non è una bilocazione, qui dobbiamo fare un piccolo sforzo. La tua unica anima, vi ricordate cosa ci siamo detti, cosa ci ha spiegato nel corso delle puntate passate, no? Noi abbiamo una sola anima, quella unica, che però anima, quindi è attua, diversi tipi di corpi. L'infante, il bambino, l'adolescente, il ragazzo, il giovane, l'adulto, la persona matura, l'anziano, il vecchio. Vi ricordate il ricambio delle cellule, no? Il ricambio integrale di cellule si ha ogni circa 7 anni. Quindi vuol dire che io ho già avuto 7 corpi completamente rinnovati. Anche se, vedete però, le mie fattezze esteriori, se uno vede una foto di quando ero un bambino, se fa attenzione, si vede che mi assomiglia. Però non sono uguale, è proprio uguale. Allora sta dicendo, tu mo c'hai 50 anni, ricordiamo sempre che stiamo ancora a San Luis Potosí, quindi questo è un dialogo che avviene mentre stanno vedendo la scena ferma di quando Tenera Amata cantò la Pacarera. Questa scena stanno vedendo con tutte quante le immagini ferme perché stanno in un paratempo molto molto al di sotto dello scorrere del secondo attuale che caratterizza la vita terrena. E lei gli dice: senti, vuoi provare rimanendo cinquantenne ad entrare dentro il tuo corpo animato dall'anima stessa che tu hai adesso, però di quando avevi 8 anni? Quindi tu entri dentro il tuo corpo di bambino per percepire adesso come eri quando eri bambino? Si può fare questa cosa? Lo vuoi fare davvero? Sì, tenera amata, non capisco bene tutto questo, ma la curiosità mi sprona. Va bene. Ma sii attento a non abusare della bilocazione. Nel ritorno della tua coscienza alla tua antica dimora, voglio dire, nel prendere nuovamente possesso intellettuale del tuo corpo di bambino, sentite cosa dice, dovrai soltanto osservare. Non attuare con la tua volontà su di esso, comportati come recettore, non voler minimamente influire sul tuo corpo infantile. Capite che significa? Cioè ti faccio vivere questa esperienza, ma la puoi vivere soltanto se tu li guardi. E vedremo che, annuncio in primis, che Riccardo non fa questo qui. E poi nostro Signore gli farà vedere le conseguenze disastrose che questo atto avrebbe prodotto nella crescita del bambino. Io dissi tra me: tenera amata esagera. Mi scordai che lei osservava i miei pensieri. Riprende: guarda che puoi compromettere seriamente il tuo futuro temporale, insistette. Ma io continuavo a pensare, ma il mio corpo di 48 anni fa è come un cadavere di me stesso, come le unghie che mi sono tagliato nel corso della mia vita. Ma in che cosa lo potrei danneggiare se la mia coscienza gli facesse alcune domande? Incominciavo già ad elaborare il questionario quando lei, che continuava leggendo il mio pensiero mediante l'ineffabile contatto delle nostre anime, mi avvertì: capite un'altra cosa, no? Un altro potere divino che Dio dà, leggere i pensieri. E infatti, Tenera Amata interviene e dice: guardati dal farlo, il danno potrebbe essere grave. Sei ancora viatore e ci troviamo a visitare il passato, ma ciò che per te, uomo maturo, attenzione, è passato, per il tuo organismo infantile è presente o futuro. Ricordate la parola magica. Sei ancora viatore. Qui in questo mondo non si possono fare queste cose. Non si può. Noi potremo rivivere tutte quante le fasi del nostro organismo dopo la morte, quando entriamo nell'eternità creata, da morti, che poi vedremo che cos'è la morte. Qui no. Perché? Perché se lo fai qui, non stai, come dice il tempo, il titolo del testo di Eterna Amata, al di là del tempo e dello spazio. No, no, qui ci stai immerso fino al collo. E quindi, se il tuo cervello di bambino, proseguo a leggere, captasse qualcosa di anomalo per la sua età, cioè tu ti vai a mettere dentro il cervello di un bambino con la coscienza di un cinquantenne, gli causerebbe un trauma psicologico o qualche cosa di peggio, e questo sconvolgimento si ripercuoterebbe in tutte le tappe della tua vita fino al tuo corpo presente. Infatti, in quanto adulto, tu hai vissuto innumerevoli spazi tempi, ma non così il tuo organismo infantile. Ciò che esso possa fissare in questa esperienza influirà per forza nel momento attuale. Ricorda che il passato, presente e futuro sono nozioni soggettive, necessarie viatori, ma senza importanza nell'aldilà. Ti Sebbene lo avevo già accettato, non riuscivo a digerire l'idea che il bambino ed io eravamo esattamente la stessa persona. Terra Amata riprende per farglielo capire un po' meglio. Il tuo essere attuale, mi disse, ha accumulato una grande quantità di atti di esistenza, questo lo capiamo, no? Che ha conservato nei rispettivi spazi-tempi della quinta dimensione. Ma non così, invece, la tua fase infantile. Non capisci che ancora non accade al bambino ciò che è già accaduto all'adulto? Scusami. Credo che è meglio per te non effettuare l'esperimento. È pericoloso. Per scoraggiarti, pensa che ci sono molte nozioni di biologia universale che non conosci e che io difficilmente potrei spiegarti. Non so come mi venne l'idea di proporti la bilocazione diretta da me. Terra Amata aveva ragione. La mia leggerezza l'aveva scoraggiata. Non è per questo, amore mio, sentite come lo chiama, mi disse per confortarmi vedendo il mio pensiero, è che la biologia cosmica è molto complessa. Introduciamo il capitolo 18, ci abbiamo ancora qualche minuto. Terra Amata ed io continuavamo in piedi di fronte alla finestra. Ecco, ci siamo ricollocati a San Luis Potosí. Nel salotto tutte le persone continuavano immobili, come statue di un museo delle cere. La mia curiosità era molto grande, ardevo dal desiderio di realizzare quel meraviglioso possesso cosciente del mio organismo di fanciullo. Tenera amata, permettimi di fare questa bilocazione, ti prometto di comportarmi con molta prudenza. Mi comporterò come un semplice spettatore. Il bambino, il mio corpo infantile, continuava immobile, fissi gli occhi sul volto della bella ragazza che presso il pianoforte sembrava cantare. Inutile dire, sappiamo chi è. La scena e proseguiamo la lettura, no? Ebbene, intenta di bilocarti. Come si pratica la bilocazione? Basta che tu voglia farlo perché il Signore te lo permette. Guardate. Come fa Dio ad operare? Basta che voglia una cosa e quella cosa si fa. Per cui se Dio ci dà la permissione di fare una cosa, basta che noi la vogliamo e quella cosa si fa. Dissi a me stesso, voglio bilocarmi, ma tutto continuò uguale. Io ero ancora in piedi accanto a Terra Amata di fronte alla finestra. Tenta ancora, disse pietosamente. Chiusi gli occhi, premendo i denti e di nuovo comandai con tutte le mie forze, voglio bilocarmi col bambino, voglio bilocarmi col bambino. Ma niente, rimanevo nello stesso posto. Guarda, l'atto di volere con veemenza non consiste nel chiudere i pugni. Premere i denti e realizzare il meccanismo muscolare dello sforzo. Il volere fervido è un atto della volontà, non dei denti o dei pugni. Tentalo di nuovo. Feci un altro tentativo e non ci riuscii nemmeno questa volta. Mi sentii sconfitto e pieno di confusione davanti a Tenera Amata. Non preoccuparti, mi confortò. Quando il mortale non può fare una cosa buona che si è proposta, deve chiedere aiuto al nostro Dio e anche al prossimo. Il Signore sempre soccorre, anche se delle volte non coincide ciò che lui dà con quello che gli si chiede. Il prossimo è Carità Cristiana, coopera fin dove può. Non sono capace di bilocarmi, dissi con sconforto. Ma come no? Il più piccolo dei glorificati, sentite, può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi contemporaneamente. Il più piccolo, eh? Io lo posso fare in sette ubicazioni contemporanee soltanto, perché il mio grado di gloria è molto piccolo. Ma alcuni beati, sentite, hanno capacità di multilocarsi milioni e milioni di volte. Capite che significa? Cioè, bilocarsi in milioni e milioni di condizioni differenti contemporaneamente? Capite grande partecipazione all'immensità di Dio che è tutto e dappertutto? E fanno godere, e godono e fanno cadere godere in maniera indicibile. Ma tu pensa se ti stai multilocando in milioni e milioni, quindi di esseri, di fiamme di amore, di animali, di piante, e ti stai a prendere in auto, treno d'amore, tutta questa roba e a ridarglieli. Sette, niente non è, sicuramente sarà una cosa bellissima, ma contami. Capite il grado di gloria che ci avremo in cielo? Lo dico per me, non voglio fare le prediche da parroco. Sprechiamo pure la vita, perdiamo tempo, andiamo appresso a cretinate, a frescacce, perdiamo occasioni per diventare più santi. Dopo voglio, cioè, se non lo facciamo adesso, sta cosa non si fa più, Quella sette gradi di gloria, le sette bilocazioni, se le tiene per tutta l'eternità, non cambieranno mai, Chiaro? Ai milioni ci arriviamo qua. Io vorrei cioè, gli stupidi esseri umani vanno appresso ai soldi per diventare come Jeff Bezos. Io cito sempre lui. Noi dobbiamo essere peggio di Jeff Bezos, ma non per diventare ricchi sfondati di soldi, ma per diventare ricchi sfondati di meriti. Perché quello che Jeff Bezos è sulla terra, noi dobbiamo puntare a esserlo in cielo, con questa roba qui. Perché coi soldi. Mo non voglio essere, ecco, che ce fai? Ti compri un pochino di beni temporali, ma tra 100 anni sei morto. Quello muore, quello lì, Anche se adesso stanno a fare tutte quante le cose, le intelligenze, soggetti che arrivano a 90 anni e sono completamente ricostruiti, che se vergognano manco a Nangiro, che se vedono lontano un miglio, che sono tutti quanti appiccicati, ma se vergognano per niente. Dice, non sono glorificato, dissi con tristezza, ma ti sto assistendo, ascolta, invece di dire voglio, voglio, chiedilo al nostro Dio, con sincero tono supplicante. Così feci. Dal profondo del mio essere dissi, Signore, se tu lo vuoi, permettimi questa meravigliosa bilocazione, altrimenti sia fatta la tua volontà. Abbastanza, ma davvero abbastanza ormai mi hai dato. E avvenne così, non seppi come. All'improvviso mi sentii dentro quel ragazzino sbalordito ed immobile. Non si trattava di un incontro tra me e lui. Dal momento in cui quel bambino non vi era nessun altro fuori di me. Ero assolutamente sicuro che tutti e due eravamo la stessa persona. Ecco, e oggi facciamo un finale tipo le serie TV, no? Che avete visto l'ultima scena, dice no. No, non finì adesso, vai avanti. No, finiamo adesso. La prossima volta. E che succede adesso? E poi vedremo la prossima volta. Il problema è che non c'è la grande suspense delle serie, perché questo, chi c'ha il libro può andarlo a vedere oltre, però dai, gli diamo un pochino di fascino, lo vediamo la prossima volta. Quindi ci lasciamo con Riccardo appena bilocato nel suo corpo di bambino. La prossima volta vedremo quello che combina e quello che succede dentro il corpo di bambino. Soltanto per chiarire, oggi è il 23, sì. La settimana prossima, solo per chi segue la diretta e poi chiudo, non andremo in diretta venerdì, perché venerdì sera ho un impegno con i sacerdoti, ma andremo in diretta giovedì, eccezionalmente perché non vorrei perdere evidentemente una puntata di Teneramata. E detto questo, Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.